Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Che è qui con me, ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Partiamo con sonno. Sì, partiamo dal sonno e ci chiediamo perché dormiamo, siamo curiosissimi. E poi Botanica, uno splendido album musicale del gruppo dei The Producers, sentirete anche della bella musica e cose di Botanica. E poi torniamo al sonno, però con dei soggetti un po' diversi che sono gli elefantoni. Via! Federico, tu dormi tanto, sei un dormiglione? Sì, io se potessi non mi sveglierei. La mattina per me potrebbe non esistere. Ecco perché è una memoria di ferro. Tu dici? Una memoria d'elefante. Stiamo mettendo insieme tutto. Questo in fondo è quello che cerchiamo di capire con Luisa De Vivo, ricercatrice all'Università del Wisconsin Madison negli Stati Uniti, che è qui con noi. Buonasera, benvenuta a Möbius. Buonasera, grazie per avermi invitato. Buonasera. Lei è autrice di uno studio che è recentemente uscito su Science e prova in qualche modo a fare un po' di luce e di chiarezza sull'utilità, sulle funzioni del sonno. Sì, in realtà perché dormiamo rimane uno dei misteri del nostro cervello. Cioè, scusi, la motivazione che siamo stanchi è troppo banale. No, non è banale. Siamo stanchi e sappiamo che dormire ci fa stare meglio, che sicuramente serve a rigenerare il nostro organismo, a recuperare le energie, ma non sappiamo perché è così fondamentale, perché a livello del nostro cervello se non dormiamo, se perdiamo delle ore di sonno, poi non funzioniamo bene, perché il giorno dopo non riusciamo a stare attenti o facciamo degli errori. Ecco, cosa succede nel nostro cervello di così importante, di così fondamentale? Questo è l'ignoto. Sì. Ecco, una cosa che voi avete studiato è quello appunto cosa succede nel cervello nel momento in cui dormiamo o nel momento in cui non dormiamo. Ci sono delle teorie sulle funzioni del sonno. Una di queste teorie è la teoria della omeostasi sinaptica e dice che la funzione principale del nostro sonno è quella di rimpicciolire le sinapsi, che sono le connessioni tra i neuroni, tra le cellule del cervello. Rimpicciolire, ha detto? Sì, esatto. E infatti noi abbiamo misurato la dimensione di migliaia di sinapsi grazie a un microscopio elettronico di ultima generazione e abbiamo proprio visto che queste sinapsi, queste connessioni si rimpiccioliscono dopo aver dormito. E questo è un risultato importante perché dà proprio la prova, fornisce una prova anatomica, strutturale e quindi anche abbastanza difficile da confutare, che durante il sonno sia il rimpicciolimento delle sinapsi. Il che vuol dire quando siamo svegli si stirano, lavorano queste sinapsi e poi invece di notte recuperano una loro dimensione normale, sembrerebbe, però probabilmente non è così. No, è più o meno così, nel senso che durante il giorno, quando noi veniamo a contatto con l'ambiente esterno, impariamo nuove cose, queste connessioni tra i neuroni si potenziano, cioè diventano più forti e anche fisicamente più grandi. Però la dimensione delle connessioni è legata anche a quanta energia poi il neurone richiede per mantenere queste connessioni, quindi le nostre sinapsi non possono crescere all'infinito, prima di tutto perché questo non è sostenibile da un punto di vista energetico e quindi ci va su un momento in cui la cellula, il neurone può rimpicciolire queste sinapsi, anche perché così permette il giorno dopo a queste o a nuove sinapsi di poter crescere e quindi imparare nuove cose. Ma quindi, se ho capito bene, allora noi di giorno, interagendo con il mondo esterno, impariamo continuamente nuove cose, quindi si formano nuove sinapsi e quindi si robustiscono queste connessioni tra le cellule del cervello. Dormire quindi è fondamentale proprio per sfoltirle e quindi per lasciare soltanto quelle informazioni rilevanti, altrimenti insomma saremmo sommersi. Allora sì, noi parliamo più di aumentare le dimensioni e rimpicciolirle, quindi potenziare e depotenziare le sinapsi più che crescere, diciamo, di crescerne di nuove ed eliminarle, perché nel cervello dell'adulto la formazione di nuove sinapsi è un po' limitata, questo avviene più che altro durante lo sviluppo. Quelle che ci sono possono aumentare dimensioni o diminuire e progressivamente o comunque si possono perdere delle sinapsi. E quelle che nel nostro studio abbiamo visto che la maggior parte delle sinapsi che si rimpiccioliscono sono proprio quelle medio-piccole, che quindi sono quelle sinapsi più deboli, che vengono attivate meno di frequente e che sottendono delle informazioni anche meno importanti, meno rilevanti per noi. E quindi il sonno in qualche modo serve a ripulire, a sopprimere un po' il segnale dato, il contributo di quelle sinapsi, di quelle informazioni irrilevanti, e invece a dare risalto a quelle più importanti, più forti, che sottendono ai ricordi, alle informazioni più importanti per noi. È singolare, curioso, è quasi una dimensione ginnica. Senta, però volevo chiederle questo. Noi quando dormiamo non siamo coscienti. Ora, dal punto di vista evoluzionistico, questa cosa qui come mai funziona? Nel senso che i paleontologi che vanno a vedere le abitazioni che per centinaia di migliaia di anni hanno visto i nostri antichi antenati vivere, sono le grotte, trovano spesso nelle grotte i resti di tigri con denti a sciabola, perché anche le tigri amano le grotte. Cioè, siccome si addormentavano e c'erano in giro questi animaletti, non dovrebbe essere rimasto nessuno. Cioè, il sonno sembrerebbe controproducente dal punto di vista evoluzionistico. Esatto, sembrerebbe controproducente perché ci espone a dei rischi, proprio perché c'è una ridotta risposta agli stimoli esterni, e nonostante ciò è uno stato fisiologico che si osserva in tutti gli animali, in tutte le forme viventi, dal moscerino della frutta, i pesci, i rettili, gli uccelli, tutti dormono, e questo vuol dire che il vantaggio che il corpo, il cervello ne trae è maggiore del rischio, perché chiaramente dormendo siamo vulnerabili, però insomma l'evoluzione ha premiato questo bisogno, che è un bisogno fisiologico. Del resto lo dicevamo in apertura, tutti sappiamo quanto possa essere pesante la carenza di sonno in termini appunto di stanchezza, sonnolenza, irritabilità e anche mancanza di concentrazione. Sì, poi tra l'altro se non sbaglio, ce lo dica lei, ma davvero bastano poche ore, al terzo giorno in cui non si dorme la situazione già diventa piuttosto critica. Diciamo gli effetti a livello dell'attenzione sono ormai abbastanza noti. Adesso si stanno studiando anche gli effetti a livello cellulare, quindi cosa succede esattamente alle cellule se non si dorme. Insomma, si sta vedendo che la cellula soffre, è stressata, e quindi in realtà il fabbisogno di sonno è abbastanza individuale, comunque sì. Più si dorme meglio è, diciamo. Ecco, infatti te lo dicevo io. Quindi buon lavoro, ma soprattutto vista l'ora, buonanotte. Sì, buonanotte a tutti. Buona serata, arrivederci. Altrettanto. Macchine, che cosa combinano sulle strade, ce lo dicono quelli del traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve lo ricordate, l'abbiamo annunciato in apertura, abbiamo un'altra curiosità legata al sonno, ma quello degli elefanti, e ne parliamo con Isaac Yadid, che è responsabile della direzione zoologica del Bioparco di Roma. Isaac Yadid, io ho una domanda molto precisa. Ho sempre saputo, anche attraverso tanti documentari, che gli elefanti non devono sdraiarsi perché hanno le spalle molto strette e quindi gli possono insorgere dei problemi di respirazione forti. Però su Facebook c'è una foto che sta girando dove si vedono degli elefanti che dormono sdraiati e sono lì addirittura come i gatti con le zampotte ripiegate. Come mai? È una fake? È un falso? No, non per niente. Gli elefanti dormono sul lato, ok? Ovviamente quanto dormono ha a fare con dove vivono e l'ambiente predatore intorno, la presenza di un cucciolo, eccetera. Ma gli elefanti dormono sul lato, possono avere problemi quando si sdraiano sul sternum, vuol dire con la pancia sotto e in giù, Perché la loro massa, la loro peso stai mettendo in difficoltà il respiro. Gli comprime i polmoni. Quindi i polmoni, esatti. Così esatto. Non devono stare, ma sdraiati sì. Sdraiati possono passare anche un bel po' di ore, e questo sappiamo da diversi studi che sono stati fatti sia in natura e sia in cattività, perché gli elefanti dentro lo zoo vengono gestiti da un bel po' di anni, e ovviamente ogni tanto c'è una necessità di fare anestesia ad un elefante, e ovviamente la base di questa anestesia che l'elefante è sdraiato sul lato, laddove si può fare operazioni anche lunghe che possono durare anche 6 ore. Senza nessun problema, senza nessun rischio all'elefante. Altrimenti, come diceva, se è sdraiato sulla pancia, insomma, l'intervento non può durare più di un tot tempo, non più di 30 minuti più o meno, ecco, perché dopo c'è una difficoltà a respirare. Ecco, e a proposito di tempo, abbiamo un'altra curiosità. È vero che gli elefanti sono veramente dei nottambuli, cioè dormono veramente pochissime ore per notte? Gli elefanti dormono poco e, di nuovo, come ho detto prima, dipende dove sono. In natura, lo studio che è stato fatto su 2 gruppi di elefanti, sono stati seguiti per 35 giorni consecutivi, hanno notato che la media è 2 ore la notte. Ma gli elefanti riposano come cavalli, anche in piedi, possono dormire durante la giornata, in piedi senza muovere, passare un po' di minuti a addormentare. Ma hanno la capacità anche di muovere, infatti sono le macchine che sono fatte per camminare e possono camminare 30 km al giorno anche, e possono passare anche 24-48 ore senza nessun problema, senza neanche addormentare. Dormono poco in paragone a altri mammiferi. Bravi però, perché mi pare che si rapportino molto bene con l'ambiente, astutamente. E quindi, oltre a dire una memoria d'elefante, possiamo dire anche una resistenza pachidermica. Sono molto molto resistente, ma sono molto come una persona che ha lavorato con contatto diretto con gli elefanti, posso dire che sono molto molto sensibili, molto. Sono, guarda, uno si avvicina a un elefante di più che ammira questo animale. Grazie, buon Yadid, lavoro. Grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi, buonasera. Siamo ospiti di un giardino nel quale il 97,3% della biomassa è vegetale. Il restante 2,7% è costituito per 2/3 da insetti. E solo 1/3 comprende pesci, uccelli e mammiferi. La specie umana, con i suoi 7 miliardi di esemplari, rappresenta soltanto lo 0,01% dell'intera biomassa. Per un alieno che osservasse il pianeta, saremmo apparentemente irrilevanti. Immaginate delle macchine che purifichino l'aria, trasformando l'anidride carbonica in ossigeno, e che siano in grado di regolare la temperatura del pianeta. Immaginate che queste macchine non abbiano bisogno di manutenzione e necessitino solo dell'energia della Terra e del Sole. Immaginate che siano capaci di replicarsi autonomamente e che i loro prodotti di scarto non inquinino, ma siano la base della catena alimentare di tutti gli esseri viventi. Questi congegni così sofisticati esistono, si chiamano alberi. E ci piacerebbe ascoltarlo, farvelo ascoltare tutto, ma qui noi invece dobbiamo parlare di coloro che hanno creato quest'album, sono i The Producer. È un gruppo, molti addetti vi conoscono, no? Sto parlando con Vittorio Cosma, uno dei 4-5. Dei quattro. Molti addetti vi conoscono perché voi lavorate moltissimo nel backstage della musica. Dietro le quinte. Dietro le quinte, costruendo i responsabili, i responsabili, Rasputin, sì, un po' della, esatto, in della realtà, musica. Gran parte, cioè tante cose di qualità sono fatte costruendo orchestrazioni, no? E non basta avere un po' di note magari originali. Voi tipicamente fate quel lavoro. Però da qualche anno vi siete impegnati nel costruire, non so come definire, dei viaggi musicali. Avete incominciato con l'universo, adesso siete arrivati a botanica. Alla botanica. Diciamo che prima il primo step è stato quello dell'essere di creare un habitat collettivo di scambio musicale, che è già un bel passo, insomma, per quattro musicisti abbastanza... adesso affermati è un brutto termine, però insomma risolti da un certo punto di vista, rimettersi in discussione a una certa età con persone con un carattere, un'identità artistica molto forte, non è così semplice, ma è molto stimolante e si cresce, si continua a crescere, quindi sì, questa è una cosa che è interessante per noi. Poi abbiamo alzato ancora l'asticella cercando di capire di cosa parlare. Non potevamo più solamente parlare delle nostre pulsioni amorose o di dei temi che di solito vengono trattati nelle canzoni, un po' sociali che ci sono, sì, anche adesso, un po', però molto all'acqua di rose, anzi cerchiamo di essere sociali con questo progetto. In realtà i vostri, esatto, sono... cerchiamo di essere un po' politici perché sì, nessuno ne parla. E abbiamo pensato che un contenuto così prima di tutto oggettivo, esterno a noi, quindi evita le liti, nel senso che ogni volta che affrontiamo un argomento ci sono dei dati oggettivi e nessuno può, non sono opinabili, l'ossigeno ha peso atomico 8 e nessuno di noi 4 può dire no, secondo me no. Anche questa sorta di intento, non dico didattico, ma comunque di dire qualcosa, e riusciamo a farlo anche dal vivo molto bene, perché attraverso questo cavallo di Troia che è la musica, che è l'evocatività, rimane attaccato qualcosa. Uno viene a vedere un concerto dei Producers Botanica e dopo aver visto, spero, un bel concerto, torna a casa guardando le piante con un altro occhio e magari avendo capito cos'è la fotosintesi clorofilliana. No, è questo il punto cruciale delle vostre composizioni. Infatti di fianco a te Stefano Mancuso, che per il momento non ha ancora parlato, che è un botanico e dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Noi qui a Moebius ogni tanto abbiamo parlato di neuro e piante, perché ormai si è aperto questo scenario. E quindi voi chiamate in causa anche degli ricercatori super esperti. È vero che il messaggio che viene fuori di contenuti abbinati a un sound, no? A una musica che ti avvolge, che li carica di significanza, ha una capacità, come dire, di generare attenzione e anche emozione su contenuti così importanti. Beh, che in altro modo non si avrebbe, no? Sì, è questo proprio il motivo per cui quando ho incontrato Vittorio e abbiamo iniziato a parlare di questo progetto, me ne sono innamorato immediatamente, non di Vittorio, del progetto. Del progetto. Io, diciamo, oltre a essere ricercatore, faccio anche una vita da divulgatore scientifico, e la divulgazione scientifica in Italia purtroppo è vista un po' male, non ha né il seguito né la forza che ha nei paesi anglosassoni, e invece è fondamentale far uscire le ricerche dai laboratori e renderle note. Allora, avere la possibilità di poter collaborare con quattro straordinari musicisti che riescono a fornire tutta la forza, l'emozione che può... Vittorio parlava di cavallo di Troia, ma è proprio è un fiume in piena che riesce a portare dei messaggi che altrimenti difficilmente arriverebbero coloro che non sono nell'ambito degli addetti ai lavori, è fondamentale. E la questione della botanica, che sembra una delle, diciamoci la verità, a prima vista è una delle scienze più noiose che esiste, diciamo, la botanica. Sì, per come ce l'hanno insegnata, soprattutto qualche anno fa. Infatti, invece le piante sono un mondo incredibilmente affascinante, sono in grado di fare delle cose, praticamente sono in grado di fare tutto quello che fanno gli animali, tranne che muoversi, spostarsi, però lo fanno in una maniera loro propria, diversa, una loro via, che crediamo tutti quanti insieme che si abbia veramente una valenza politica, nel senso che è un modello, quello vegetale, al quale noi potremmo ispirarci per cambiare sia le nostre tecnologie, ma anche addirittura la nostra società. c'è un passaggio, perché questi brani, prendete questo LP, LP ho detto, beh, ma stanno tornando. Mi piace. C'è un altro passaggio in cui si segnala questa cosa assolutamente impressionante. Le piante sono organismi viventi che in alcuni casi, non tutte, possono arrivare a 4.000 anni di vita. Io ho un piccolo aneddoto personale: l'anno scorso ero in Grecia, a un certo momento, in un po' in montagna, in un ristorante, c'erano i tavolini ed erano sotto una quercia che aveva 500 anni. Io ho avuto come una sensazione di presenza fortissima mentre mi mangiavo. Non riuscivo a staccare gli occhi, perché in effetti un organismo che abbia 500 anni, che abbia... Tra i più antichi c'è della roba che ha delle età inimmaginabili per noi. Ci sono dei Pinus longeva che superano i 4.600 anni, c'è un abete in Svezia che ha oltre 9.000 anni e che è l'organismo singolo più antico del pianeta, ma poi le piante hanno una capacità ancora diversa, che è quella di replicarsi clonalmente, cioè di mantenere la loro individualità nelle generazioni successive. E allora c'è negli Stati Uniti una foresta che ha un nome addirittura, si chiama Pando, nello Utah. Diciamo, ci sono stime un pochettino diverse, non è semplice saperlo, ma sicuramente da più di 80.000 anni, cioè è lo stesso organismo da 80.000 anni che si replica sempre uguale. Voi capite che per dei musicisti questo è oro colà, cioè sono fonti di enorme ispirazione. Quando abbiamo capito che questo, che ne so, il Pinus longeva era nato prima della scultura, della scrittura cuneiforme, ha visto nascere le piramidi, ha visto la nascita di Cristo, di Maometto. Sicuramente meglio di qualsiasi testo, mi viene da dire anche di Mogol, quasi forse, cioè sono più interessanti e più anche istruttivi. E voi quindi avete creato... Non me ne voglia Mogol. No, vabbè. Avete creato una musicalità che effettivamente accompagna questi concetti così forti. Così sì, poi sono generatori di grandi metafore, ovviamente, di interpretazione, che è un po' quello che l'arte deve fare. Se in più, oltre a generare emotività e interpretazioni, lascia anche una traccia, secondo noi abbiamo fatto una cosa degna. Cioè, insomma, andiamo a dormire tranquilli. Io vi ringrazio, finiamo prendendoci un altro pezzettino di Pianeta Verde. Su questo bellissimo brano musicale sfumiamo, Simone, ci sentiamo la prossima settimana con tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Vi aspettiamo qui su Radio 24, puntuali alle 21.05. Buona serata a tutti. Mi raccomando, buona settimana.